E benvenuti alla nuova puntata di Cialtroni nello spazio. La sesta dovrebbe essere. La sesta, no, secondo me è la quinta. Dopo controlleremo sul sito e sveleremo questo mistero. Lo spazio di approfondimento informatico di Radio Onda d'Urto. Stai quasi imparando a farlo e a dirlo quasi senza che nemmeno te lo chieda. Adesso no, lo dici bene. Che cos'è Cialtroni nello spazio? Informatica, libertà digitali. Di questo si parla sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per chi non riesce ad ascoltarci in diretta, ci può ascoltare sul scaricando la puntata sul sito radio.circolab.net. E oggi, come si saranno già accorti gli ascoltatori e le ascoltatrici più attente, manca una voce importante. Infatti la puntata sarà un po' più scarna probabilmente. Stavo per dire, sarà una puntata più bella appunto, no, perché... Poi dipende, in realtà potrebbe anche succedere. E con noi a farci compagnia sempre i Chemical Brothers. Oggi non c'è Alessandro con le sue novità musicali, poco novità magari a volte, però insomma sempre musica libera e gratuita. E oggi ci occuperemo in sostanza di un grande argomento, dopo aver dato qualche news, ovvero l'ultimo programma antipirateria della Sony, che chiamarlo programma antipirateria è un po' un eufemismo. Chiamiamolo quindi, e col suo vero nome, l'ultimo virus prodotto dalla Sony. Un virus che per ora è legale, ma ancora per poco. Ne parliamo comunque nel dettaglio dopo aver dato qualche aggiornamento rispetto alle news di quello che è successo nell'ultima settimana. Sicuramente la più grossa è appunto la scoperta di questo programma della Sony, di cui parleremo nel dettaglio più tardi. Prima di questo però diamo un paio di riferimenti rispetto a quello che è successo. Per esempio, consumatori informatici potrebbero essere contenti del fatto che in Italia CD e i DVD dovrebbero costare meno. Questo per l'approvazione di un emendamento che riduce il cosiddetto equo compenso, che oggi grava sulle tasche di distributori e consumatori. Ovviamente, indovinate chi si oppone? La SIAE. Non guardarmi così, Marco. Non vedevo la notizia da qua. Ah, tu sei senza notizie. Sì, esatto. Ricordiamo cos'è questo equo compenso. È una tassa che viene applicata a CD vergini, cassette vergini, videocassette vergini, dispositivi di copia quali videoregistratori, masterizzatori e quanto eccetera eccetera, che permettono, che vengono addizionati di una percentuale di tasse che vanno direttamente alla SIAE, guarda caso, che poi gestisce bellamente come distribuirlo, ovvero dando il 50% alla musica del liscio e cose del genere. In quanto, vabbè, la SIAE è una cosa un po' tanto complicata e piena marcia fino alla radice. Tutto questo entra nella nuova finanziaria, e se l'importo da versare alla SIAE non dovrebbe superare il 10% del prezzo al distributore dei supporti, quindi comunque non è che viene abolita, viene semplicemente ridotta. D'altronde non potevamo aspettarci qualcos'altro dalla cricca italiana. Esatto, la situazione dei CD è abbastanza, CD vergine è abbastanza sintomatica, in quanto il costo del CD penso si aggiri oramai sui 20 centesimi, a cui bisogna aggiungere un 25 centesimi di tassa da pagare. Ed è per questo che sono infatti fioriti vendita online di CD, che li compri dall'estero. Esatto, DVD, senza pagare questa tassa. Ecco perché infatti costa così tanto rispetto a fuori dall'Italia. Quindi se dovete fare degli ordinativi, andate su qualsiasi sito estero tipo DVD Italia. Ma non dire nomi, non dire nomi. Troppo tardi. E a quel punto questi vi mandano a casa il vostro pacchettino con tutti i CD, quindi fate l'acquisto tra amici e non pagate la tassa alla SIAE. Pagate qualcosa di spese di spedizione, ma alla fine è molto meno rispetto a pagare il prezzo del CD doppio. Sei un vero pirata, Marco. No, non voglio pagare questa tassa alla SIAE. E vabbè, a proposito di finanziaria, poi leggevo prima, ma non è ancora confermata, che adesso vogliono aumentare invece i costi di ADSL e di telefonia UMTS in modo da finanziare il mercato, di rimettere i fondi che hanno tolto al cinema nell'ultima finanziaria, vogliono andare a tirarli fuori dalla DSL. Vabbè. Un'altra notizia che fa piacere ogni tanto. Telecom condannata per servizi non richiesti. Esatto, infatti come è noto la Telecom da una vita continua a abilitare servizi aggiuntivi non richiesti, semplicemente, cioè unilateralmente, andando quindi, non so, ad abilitare la Telecom 24. Per esempio, sì, l'avviso di chiamata, la deviazione di chiamata e la segreteria telefonica della Telecom, sono tutte cose che vi ritrovate abilitate di default, magari, senza che voi l'abbiate mai richiesta, quando Telecom decide di farlo. Infatti il Movimento di Difesa del Cittadino descrive appunto una situazione limite in cui una persona si è trovata a debitare, sono state debitati 93 euro di attivazione di un'opzione tariffaria che lui non aveva richiesto, una Teleconomy o qualcosa del genere. Addirittura quelli della Telecom sono molto simpatici perché ti telefonano e ti chiedono se vuoi abilitare Teleconomy e quando tu gli rispondi no, non voglio abilitarla, loro ti dicono va bene, grazie, arrivederci, e a quel punto te la abilitano. La simpatia è di casa Telecom. Quindi quando qualcuno della Telecom vi telefona a casa e vi chiede se volete abilitare qualcosa, vi consigliategli, no, allora innanzitutto arrabbiatevi con lui e dopodiché minacciatelo, dite che state registrando la telefonata, che passerete la registrazione al vostro avvocato e che li trascinerete in tribunale, perché non si meritano altro. Un'altra notizia veloce, in Italia abbiamo primi in Europa, abbiamo avuto la decisione dal nostro governo di portare tutto verso la televisione digitale, grazie alla... Come tutti ce ne siamo accorti, in realtà era una vicenda che era nata in una maniera un po' particolare, perché si trattava di salvare Rete 4, ovvero siccome in Italia non c'erano più frequenze, si è deciso di... un giudice aveva condannato Rete 4 a passare sul satellite o sul digitale terrestre, il digitale non c'era in Italia e quindi si è pensato di crearlo per poter salvare Rete 4 in modo da espandere la concorrenza televisiva, si potevano creare più reti e quindi non esisteva più il limite dell'antitrust. Però, esatto, questo... però quando poi si è deciso veramente di passare al digitale terrestre, ovviamente l'unica in Italia, gli unici pronti a utilizzare le tecnologie del digitale terrestre erano, guarda Rete caso, 4. Rete 4, Mediaset, che si è ovviamente impadronita di un sacco di canali nel nuovo mercato che era lasciato liberalizzato e quindi senza decisioni dell'antitrust relative a chi assegnare le frequenze. Verrebbe da chiedersi, ma chi c'era al governo quando venivano approvate certe leggi? E in particolare c'è una simpatica mossa che, allora, in Italia sappiamo tutti che esisteva il monopolio della televisione a pagamento, della televisione via cavo, via satellite, fatta da Murdoch con la sua Sky, che si è comprata la vecchia, non mi ricordo più come si chiamavano, Telepiù e l'altra, la concorrente, che era Stream. Si è comprata entrambi, lui si è comprato entrambe queste televisioni e a quel punto era diventato monopolista del mercato italiano, fino a quando un giorno il signor Silvio Berlusconi decide: ah, ma voglio anch'io entrare in competizione con il signor Murdoch. Però il problema era che a quel punto avrebbe dovuto distribuire a tutti gli italiani il suo decoder, quindi dei costi decisamente elevati per distribuire questo decoder agli italiani. Quindi cosa ha deciso? Che gli italiani avrebbero potuto comprare i decoder del digitale terrestre utilizzando scontati, perché appunto lo Stato italiano aveva messo un incentivo sull'acquisto di questi decoder. Quindi il signor Silvio Berlusconi in questo modo riesce a ottenere di far distribuire allo Stato italiano i decoder, però per tecnologie quindi che Cioè, riuscito a regalarsi i soldi anche stavolta. Sì, insomma. Sì, ma è stata tremenda. Per cui a questo punto, è, ad esempio, abbiamo Mediaset Premium, che è il loro canale per comprare i film, oppure la possibilità di guardare le partite di calcio a pagamento. E quindi, cioè, perfetto, una mossa incredibile, bellissima, da, non so, da Monopoly sembra proprio, dal gioco. E non gli fosse bastato questo. Un'interrogazione parlamentare di alcuni senatori di questi giorni, appunto, chiedono di chiarire il fatto che questi decoder digitali terrestri vengono prodotti da una ditta chiamata la Solari.com, che è controllata attraverso dalla PBF SRL dal signor Paolo Berlusconi. No. Quindi lo Stato italiano. Ma chi è Paolo Berlusconi? Il fratello di Silvio. E quindi, allora, facciamo ad esempio che io voglio prendere il digitale terrestre per casa mia. Volevo prenderlo, allora vado a comprare il decoder. Il decoder quanto mi costa? Niente, perché il contributo statale è di 100 euro. Il decoder costa 100 euro, per cui il decoder me lo regalano. Quindi lo Stato dà 100 euro al produttore del decoder. Il produttore del decoder chi è? Berlusconi. Per fortuna che queste dovevano essere tre notizie veloci che volevamo dare. Siamo a 12 minuti di trasmissione. Passiamo quindi, dunque, all'argomento principale, clou di questo pomeriggio. Sony ufficialmente denunciata. Perché ha fatto un po' la cattivella stavolta? Allora, veniamo ai fatti. Agli antefatti. Degli antefatti sono che da anni ormai le major discografiche costruiscono dei sistemi che cercano di costruire, cioè che cercano di impedire la copia dei CD originali attraverso il computer. In realtà poi, oltre a impedire la copia, impediscono anche il normale funzionamento dell'ascolto del CD sul proprio computer. Questi dispositivi di copia vengono chiamati anche DRM, ovvero Digital Rights Management, dispositivi che permettono di controllare i diritti d'autore relativi a questi CD. Ci sono da anni questi sistemi anticopia nei CD, dai primi più blandi che bastava schiacciare il tasto shift per non abilitarli, oppure prendere un pennarello e fare una righetta in una posizione particolare del CD. Erano altri tempi. Pian pianino anche questi produttori di CD, che devono lottare con gente che ha, cioè, mettiamo, chiariamo bene le cose, stiamo parlando dei CD originali, ovvero io vado in negozio, spendo un tot di soldi per comprare un CD, e a questo punto questo CD ha queste protezioni anticopia che tendono a impedirmi di usufruire del CD, ovvero sia... Cioè, per esempio, se io volessi evitare di farmi rubare tutti i CD della mia macchina, tipicamente nel mio cruscotto dell'auto terrei delle copie dei CD originali che ho legittimamente comprato, quindi... Mi sembra anche abbastanza ovvio che io abbia il diritto di poter fare queste copie per evitare appunto dei furti, ma questo è solo uno degli esempi. Ebbene, questa cosa non si può fare in maniera, diciamo così, semplice con le ultime protezioni. Siamo arrivati però all'assurdo, perché l'ultima protezione prodotta dalla Sony, Marco... Esatto, l'ultima protezione prodotta dalla Sony non ha più le caratteristiche tipiche di un sistema di controllo dei diritti di copyright, ma ha le caratteristiche tecnologiche di un virus, in particolare di un rootkit. Ovvero sia, cos'è un rootkit? È un sistema che che si inserisce all'interno del sistema operativo in modo autonomo, senza che noi lo sappiamo, nel momento in cui mettiamo questo CD all'interno del nostro computer, e va a installare dei file nascosti che vengono eseguiti dal sistema e rendono invisibili tali file, rendono invisibili gli eseguibili che vengono appunto installati mediante tali file, insomma creano una zona all'interno del nostro computer oscura in cui nessuno può entrare, nessuno può sapere l'esistenza di questa zona. e attraverso questi programmi che girano in questa zona vanno a impedire usi legittimi del CD, quali ad esempio farne una copia o farne una copia o utilizzarlo attraverso dei software che non sono previsti da questa zona oscura. Il particolare è però questa zona oscura ha, in questo caso è diventata, come ho detto appunto, ha tutte le caratteristiche di un virus e addirittura può permettere, allora innanzitutto è impossibile da rimuovere. Una rimozione non attenta di tale zona, innanzitutto problema fondamentale, non si può trovare, però se qualcuno decisamente bravo la trova, prova a cancellare questi file nascosti, il sistema si pianta e non c'è nient'altro da fare che reinstallare tutto il sistema. Addirittura poi questo sistema di protezione, una volta scoperto da Mark Russinovich, Russinovich, cioè dopo la segnalazione ovviamente la Sony ha costruito una patch, non mi ricordo se l'hai già detto Marco. No, non ancora, stavo ancora parlando. Scusa. Perso il filo del discorso. Sì, ok, allora insomma Mark Russinovich ha scoperto questo sistema, l'ha analizzato e ha trovato tutte le possibili conseguenze del riutilizzo di questo sistema, tra cui anche il fatto che dei futuri produttori di altri virus potranno utilizzare questo sistema prodotto dalla Sony per andare a installare dei rootkit all'interno cioè possono prendere questo programmino inventato dalla Sony per proteggere loro CD e possono utilizzarlo per installare loro delle porcate all'interno del computer. Adesso lo spieghiamo come se fossimo di fronte a bambini di 4 anni, in effetti. Ovvero, voi cosa succede quando inserite un CD protetto da questo tipo di protezione della Sony? Voi inserite il CD nel computer, automaticamente si installa qualcosa di cui voi non vi accorgete nel vostro computer. Una volta che questo qualcosa è installato, esegue dei controlli per evitare che il CD venga copiato o utilizzato in maniera non prevista appunto dalla Sony. Questo sistema però, oltre a eseguire dei controlli appunto di questo tipo, può essere utilizzato come un vero e proprio virus da altri agenti mentre voi installate qualcosa navigando in internet, perché mette in difficoltà l'intero sistema. La cosa principale è che questo programma virus della Sony non può essere rimosso in maniera semplice, e se viene rimosso in maniera non appropriata, e non esiste ancora una modalità veramente appropriata per rimuovere questo programma, viene compromesso il vostro utilizzo del computer. A questo punto la Sony, dopo che è saltata fuori questa notizia, dopo che si sono accorti di essere dei pirati in internet, ha pubblicato un software che di fatto rende più o meno visibile, ma comunque non disinstallabile e non circunnavigabile, questo sistema di controllo e di protezione, ma lasciando comunque scoperti tutti i problemi di sicurezza adesso collegati. E tra l'altro proprio Russinovich, che ha svelato l'esistenza del rootkit e poi ha studiato un po' la patch di Sony, fa notare come rimuoverla può appunto rimuovere il rootkit, può bloccare il computer come stavamo dicendo prima, ma ancora più divertente e la dice lunga sul comportamento di Sony, è stato notato da Russinovich come per scaricare la patch della Sony tu devi compilare dei form online in cui in piccolo c'è scritto che il tuo indirizzo email verrà aggiunto a varie liste marketing della Sony, quindi per avere la patch devi essere anche ritrovarti con la tua casella piena di pubblicità. Wow. E comunque questo non passerà, non passa inosservato, ne stanno parlando un po' tutti in tutto il mondo, in particolare la ALCEI, che vuol dire, cosa vuol dire ALCEI Marco? Associazione per il libero... Associazione Italiana per le Libertà Digitali? No. Non è questo è l'acronimo esatto, però questo è quello che vuol dire questa ALCEI. Noi abbiamo telefonato a Giancarlo Livraghi, che è il webmaster di Gandalf, sito appunto sulle libertà digitali e sul software libero. però vi facciamo sentire e vi facciamo sentire l'intervista quindi con Giancarlo Livraghi. Collegamento con Giancarlo Livraghi per andare a parlare dell'ultima azione che è stata presa dall'Alcei, ovvero una denuncia contro la Sony dopo l'installazione, dopo la scoperta che la Sony negli suoi ultimi protezioni anticopia installa dei programmi molto più pericolosi del solito. Ciao Giancarlo, grazie di essere con noi. Eccoci qua, buongiorno. Ecco, a te proprio volevamo chiedere innanzitutto come mai si è deciso di passare ad un'azione legale, proprio in questo caso quali sono le differenze rispetto ai programmi anticopia che vengono utilizzati di solito? Ma nella sostanza generale è un po' sempre la stessa cosa. Qui l'obiettivo non è tanto di fare un'azione specifica contro uno, nel caso, in questo caso, la Sony, quanto di richiamare l'attenzione su un problema più ampio. Cioè qui la storia del copyright, di tutti gli abusi fatti in nome del cosiddetto diritto d'autore, è un problema grosso, noto e grave. Nel caso specifico hanno esagerato ancora più del solito, perché per mettere una protezione ha messo su una roba che di fatto è un virus, cosa che loro stessi poi hanno ammesso, perché avendo mandato fuori una patch di correzione hanno implicitamente ammesso di averlo fatto. E quindi il caso è un po' una punta estrema, diciamo, di un fenomeno diffuso. Non so se è chiaro quello che intendo dire. Sì, certo, questo è chiaro, però nel senso si è deciso di passare a questo proprio perché negli scorsi anni sono passate più in silenzio queste cose probabilmente? Beh, per quanto riguarda Alcei e associazioni in giro per il mondo con una posizione analoga alla nostra, il silenzio mica tanto, nel senso che di cose critiche nei confronti di comportamenti, di legislazioni perverse, particolarmente in Italia. Allora, qui c'è un assurdo legale e sostanziale. È inconcepibile che il semplice fatto che qualcuno è in possesso, ma anche, magari neanche usa, non si parla di, non immaginiamo neanche che ne faccia commercio, di un qualcosa per cui non ha una licenza, sia trattato come un criminale. Cioè abbiamo procedure da omicidio per quella che, nell'ipotesi più estrema, è una violazione di contratto civile. Curiosamente questi sono incappati in una trappola, una specie di contrappasso dantesco, perché invece il comportamento di chi installa a tradimento un software dannoso è giustamente considerato criminale, quindi stavolta i criminali sono loro, e questo è interessante, cioè si rovescia completamente la posizione. Cioè si torna probabilmente anche a una posizione un po' più equa, cioè a spiegare cosa sono i comportamenti di queste major. Cioè, in effetti noi dichiaratamente stiamo cercando la cosiddetta corse d'evro, cioè è il caso singolo che al di là delle sue caratteristiche singole, comunque assolutamente improprie e assurde, è la punta di un fenomeno noto. Quindi si approfitta di un singolo caso per mettere in evidenza un fenomeno più esteso. Non è che ce la vogliamo pigliare proprio esclusivamente con la Sony, perché è un fenomeno diffuso, non è un caso isolato. Questo ha caratteristiche estreme che permettono di mettere più chiaramente più in luce la gravità della situazione. Perché siamo arrivati all'assurdo, siamo arrivati a cose che non funzionano. Se uno ha una certa cosa, mette su un altro computer, non funziona più nulla, gli spacca la macchina, cioè fenomeni di questo genere, che sono assurdità assolute e prepotenze inaccettabili, ci sono già stati. Questo si presta in modo particolare a un attacco, fra l'altro con un obbligo di procedura, perché la legge criminale, io non sono un avvocato, ma la legge penale impone d'ufficio l'intervento della polizia e della magistratura. Quindi quello che questi sono riusciti a fare contro qualche innocente persona che per caso aveva un pezzo di musica, si ritorce contro di loro finalmente. Vedremo magari degli aggiornamenti rispetto a questa vicenda. Grazie Giancarlo Livraghi, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Ed era dunque Giancarlo Livraghi di Gandalf e anche del Alcei. Marco, tu adesso hai imparato che cosa vuol dire Alcei? L'associazione per la libera comunicazione elettronica interattiva, per la libertà della nella comunicazione elettronica interattiva. È in sostanza un po' come l'Electronic Frontier Foundation, sì, all'incirca, all'incirca che abbiamo citato più volte. Bene, mi sembra che sia praticamente tutto per la puntata di oggi, Marco. Beh, non... sì, dovremmo essere a posto. Vabbè, volevo... Non vi abbiamo allietato con la musica di Alessandro, purtroppo, perché Alessandro è malato. Gli facciamo anche gli auguri di guarire presto. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Ci manchi. E comunque vedo che volevi aggiungere ancora qualcosa riguardo... No, no, a posto, a posto. Ok, tutto a posto. Bellissima la maglietta di Marco che ha oggi Debian con New Linux. Il pinguino dietro. Il pinguino, in realtà sembra un po' uno gnu. Uno gnu e un pinguino, tutto due. Uno gnu e un pinguino. Bando alle ciance, ora della sigla. Ed è tutto per questa puntata di Cialdroni nello Spazio, la quinta. Che ne dica Marco. Abbiamo visto che il sito non è molto aggiornato, abbiamo aggiornato fino alla terza puntata, ma vedremo di mettere al più presto anche la quarta e quella di oggi. Radio.circolab.net. Risponderemo anche all'email del nostro ascoltatore che ci ha scritto la settimana scorsa. Lo faremo nella prossima puntata. Va bene. E anche la sigla sta finendo, quindi noi vi salutiamo e ci sentiamo mercoledì prossimo attorno alle 12:40 dopo il giornale radio. In breve l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, la linea passa a Vera. Ciao. Ciao.